Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Avrebbero fatto fessi anche Tito Stagno e Ruggero Orlando. Sì, che già era partita già litigavano, che ancora il LEM non aveva toccato la superficie lunare. Però la diatriba sulla conquista della Luna ce la siamo portata avanti tuttora, non è mai stata risolta. E infatti il nostro ascoltatore Daniele si interroga proprio su questo. Succio. Direi di sentirlo. Ci sono telescopi di enorme potenza, con i quali si vedono galassie lontanissime. Non si potrebbe usare uno di questi per guardare il punto in cui scesero Armstrong e Aldrin? Lì ci sono i resti del veicolo spaziale con il quale atterrarono. In questo modo si chiuderebbe la diatriba del falso sbarco sulla Luna. Si potrebbero utilizzare telescopi con cui osserviamo i pianeti, le stelle. Sembra banale, ma non è così. E allora noi da chi andiamo? Ovviamente da un astronomo, da un docente della Sapienza. Diamo il benvenuto ad Adriano Fontana. Grazie. Lei è astronomo presso l'Osservatorio Astronomico di Roma, docente alla Sapienza di Roma. E dunque ci dica, come mai i telescopi non possiamo puntarli sulla superficie lunare e vedere se c'è quell'impronta, quella prima impronta che tanto ha cambiato nell'umanità? Ah, addirittura l'impronta del piede di Armstrong. Sì, io vorrei vedere l'impronta. Purtroppo non ce la fanno assolutamente. Anche i migliori telescopi, sia il telescopio spaziale Hubble che i migliori telescopi da Terra, hanno una risoluzione molto peggiore di quella che servirebbe. Per intenderci, possono osservare oggetti grandi almeno 100-200 metri sulla superficie della Luna. Ecco. Non riescono a risolvere dei dettagli inferiori. Però c'è un però. C'è una sonda americana che si chiama LRO che è stata lanciata dalla NASA in orbita intorno alla Luna e ha fatto una carta, una geografica di tutta la Luna e ha ripreso i siti dove sono sbarcati gli astronauti e ci sono le foto che si trovano facilissimamente in internet nelle quali si vedono i resti della, non ovviamente le orme, quelle sarebbe troppo bello, ma almeno le ombre causate dai vari LEM lasciati sulla superficie della Luna. Quindi c'è un'immagine, che cosa si vede? Ce la descriva, perché adesso noi non ce l'abbiamo presente, potremmo cercarla in internet. Purtroppo anche lì si vede poco, però si vede un puntino luminoso che corrisponde all'astronave lasciata sulla Luna e una striscia dovuta all'ombra del Sole che in quel momento era abbastanza radente sulla superficie. L'ombra, sì, perché il LEM era una specie di macchinetta del caffè di cui, tipo la moca, il pezzo in alto partì verso l'orbita e rimase sotto una cosa un po' esagonale, mi ricordo, con le zampe. Un trespolo, diciamo, un trespolo di pochi metri di dimensione. E quello lì si vede perché dice c'è pure l'ombra. Sì, certo. Sì. Naturalmente si può sempre speculare che siano state ritoccate col Photoshop, qualcuno lo fa. Però certo. C'è una previdenza più stabile che una delle ultime missioni Apollo ha lasciato sulla superficie della Luna uno specchio speciale. Questo specchio viene ripetutamente colpito da raggi laser provenienti dalla Terra per misurare la distanza della Luna dalla Terra, studiare la forza di gravità e così via. E quindi noi vediamo, è un esperimento che viene ripetuto continuamente da allora. Cioè c'è un riflesso che ci arriva da questo specchio che è sul suolo lunare. Esattamente, e può essere un riflesso solamente di questo specchio particolare che è fatto in modo da rimandarci esattamente la luce laser che noi gli mandiamo. Per puntualizzare la domanda di Daniele, il fatto che i telescopi non riescano a riprendere appunto questi oggetti che non sono molto grandi, non sono molto voluminosi, è una questione proprio di risoluzione o c'è anche una questione, non so, di luce? È sicuramente una questione di risoluzione. La risoluzione è limitata da quanto è grande lo specchio, per cui anche lo specchio più grande come quello di LBT, che è un telescopio in Arizona a partecipazione italiana, che è di 22 metri di diametro equivalenti, non basta, ce ne vorrebbe uno largo probabilmente di almeno 10 volte tanto per vedere i due elementi. Dopodiché c'è anche un problema dovuto al fatto che la Luna è una superficie brillante, quindi è particolarmente difficile vederlo. I telescopi sono fatti per vedere stelle o galassie, però il primo problema cruciale è quello della risoluzione. Va bene, almeno con il riflesso laser sappiamo che una seconda, terza missione ci è andata. Di sicuro ci è andata. Resterà il problema della prima. L'abbiamo risolta via questa diatriba o no? Possiamo ritenerci soddisfatti? Noi sì, secondo me in generale no. Grazie allora Fontana per questo piccolo grande passo per la nostra umanità. Grazie a voi, arrivederci. Buon lavoro. Cercate risposte alle vostre domande di scienza? Bene, siamo qui apposta, scriveteci elementare@radio24.it perché rispondiamo a tutte le domande. Per esempio, ci sono stati dei casi di interventi di chirurgia estetica per ottenere labbra a canotto sponsorizzati dalla Zodiac? Elementare Watson.